Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, i temi che affronteremo nella giornata di oggi. Torneremo sul vertice di Ventotene, come già ieri avevamo prospettato, non si è andati molto oltre lo spot, insomma il farsi vedere insieme su questa portaerei da parte dei tre leader, anzi per essere precisi una porta elicotteri e portaerei, l'omaggio alla tomba di Altiero Spinelli, dichiarazioni di principio sul fatto che l'Europa non è finita con la Brexit e poco altro, manovre comunque di avvicinamento al vertice di Bratislava che ci sarà in settembre, un vertice a 27 con tutti i paesi europei, un vertice che promette di essere decisivo, ma quante volte abbiamo sentito l'espressione, l'aggettivo decisivo per descrivere i vertici europei, pensate solamente a gli anni drammatici che abbiamo vissuto con la crisi greca, solamente per farvi un'idea, ogni mese ce n'era uno, ogni mese era un vertice decisivo. Vedremo se quello di Bratislava ci consegnerà qualcosa. Parleremo comunque del vertice di Ventotene perché qualche elemento è emerso, soprattutto in merito a quel che riguarda l'Italia. Perché si è detto che Matteo Renzi e Angela Merkel non avrebbero parlato di flessibilità o quantomeno non era nell'agenda del vertice. Certo, qualche domanda c'è stata da parte dei giornalisti, è probabile che forse qualche accenno ci sia stato, ci sono però aperture sull'ipotesi che venga, come dire, per quanto riguarda appunto il tema della flessibilità, la possibilità che ci sia, come dire, uno scorporo dal deficit degli investimenti per i siti culturali, che è comunque un elemento importante, considerato tra l'altro quanti siti culturali abbiamo noi, sono pur sempre investimenti pubblici, rilancio della domanda, e questo è quanto. E questo sarà il tema che affronteremo oggi in merito al vertice di Ventotene. C'è una questione che riguarda più strettamente l'economia e l'industria italiana, che è la vicenda di Portovesme, e questo sarà il nostro secondo tema. Portovesme, nel Sulcis, dove si trova uno stabilimento dell'Alcoa, Alcoa che ha annunciato ieri che lascerà definitivamente questo stabilimento. Vi ricordiamo che la situazione è piuttosto complessa e ha molto a che fare con quello che succede in Italia, con i problemi italiani e anche, se vogliamo, con i problemi europei. Perché? Perché là c'è un problema, Alcoa è un colosso dell'alluminio, a Portovesme si produce alluminio, là c'è un problema che riguarda il costo dell'energia. Sono stati riconosciuti dei benefici fiscali all'Alcoa per molti anni per poter produrre là. Nel 2011 la Commissione Europea ha detto che si trattava di aiuti di Stato e non si poteva andare avanti. A quel punto Alcoa ha detto: va bene, se non possiamo avere questi aiuti noi ce ne andiamo. Si è offerta di subentrare Glencore, che è una multinazionale svizzera dello stesso settore, ma le cose non si sono concluse, nonostante il governo abbia offerto dei benefici sempre in termini di costo dell'energia per un'industria che appunto è particolarmente energivora. La situazione è una situazione di stallo, ci sono stati anche dei vertici in maggio e prima dell'estate esattamente su questa vicenda, dei vertici che hanno coinvolto appunto anche il Ministero dello Sviluppo Economico oltre che i sindacati e la stessa azienda. C'è la reazione molto dura dell'esecutivo, ne parleremo col collega del Sole 24 Ore Paolo Bricco e avremo anche un sindacalista della FIM-CISL. Parleremo di mercati, come facciamo tutti i giorni, è una giornata quella di oggi particolarmente positiva e particolarmente positiva per Milano, più 2,39% per il FTSE MIB, più 2,20% per il FTSE All Share, mentre L'Europa guadagna lo 0,94% sul DAX a Francoforte, a Parigi lo 0,71%, Londra lo 0,76%, mentre l'America guadagna lo 0,19% sul Dow Jones e lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,34%. A tirare il mercato, soprattutto in Italia, sono come sempre e come sempre in questi casi le banche, in particolare Unicredit che guadagna il 6,12% e FinecoBank il 7,6%, tutto questo sulla scorta di indiscrezioni secondo le quali sarebbe vicina Unicredit la chiusura della vendita di Pekao, che è una banca polacca, parte di quel piano di dismissioni di Unicredit appunto per rafforzarsi. Positive comunque anche UbiBanca più 6,7%, Mediaset più 5%, Popolare Emilia Romagna più 4,9%, Mediobanca più 4,8%, Intesa San Paolo più 4,82%. Già che ci siamo, vi do gli unici due titoli negativi oggi che sono sul listino principale, ovviamente Campari che cede 0,5 punto percentuale, Italcementi lo 0,09%. A proposito di quello che succede sui mercati, c'è un tema che ieri abbiamo affrontato veramente di volata, dando solamente una notizia, è questo giro di fusioni e acquisizioni che si sta realizzando, in particolare nel settore farmaceutico e nel settore chimico. Abbiamo l'annuncio di ieri di Pfizer, che acquisirà per 14 miliardi di dollari il gruppo californiano delle biotecnologie Medivation, e secondo quanto riporta Bloomberg oggi, l'acquisizione di Monsanto da parte della tedesca Bayer potrebbe essere questione di pochi giorni, e parleremo proprio di questo, sarà l'ultimo tema di questa puntata. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, le notizie in breve di oggi. Non sarebbe male, qualcuno ci suggerisce via WhatsApp di fare così come Alessandro Milan fa il conto tutte le mattine durante l'anno della settimana decisiva per l'abolizione delle province, facciamo il conto dei vertici decisivi dell'Unione Europea, non male. Potremmo pensarci, avremmo già perso il conto comunque. Le materie prime innanzitutto, oro in rialzo dello 0,2%, a 1.341 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio invece abbiamo in questo momento una virata al rialzo, aveva aperto in ribasso dell'1,4% dopo i cali di ieri. Abbiamo una virata al rialzo con il WTI con consegna ad ottobre, quello quotato a New York, che guadagna uno 0,5% a 47,6 dollari al barile. E il Brent che guadagna lo 0,81% a 49,5 dollari al barile. A proposito di petrolio, ha parlato il premier russo Dmitry Medvedev, che dice se il prezzo dovesse mantenersi sotto ai 50 dollari al barile, il deficit della Russia sfonderà la quota del 3% del PIL. Ormai evidentemente è una cifra magica anche per chi è fuori dall'Europa. Ha sottolineato Medvedev come nella prima metà del 2016 le entrate sono state inferiori alle attese dell'11%. In questo fine settimana è previsto il tradizionale summit della Federal Reserve a Jackson Hole. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha fatto sapere che non ci sarà, tramite un portavoce dell'Istituto di Francoforte. A rappresentare la BCE sarà il membro del board Benoît Cœuré, il quale ha anche detto oggi che la BCE sarà costretta a varare ulteriori misure di stimolo se i governi non porteranno avanti le riforme strutturali. Nuove misure straordinarie però potrebbero avere aggiunto effetti collaterali. Di Bayer vi abbiamo accennato, sarebbe vicino l'accordo con Monsanto, si lima il prezzo, ci sono stati incontri ripetuti fra gli amministratori delegati, quello di Bayer Werner Baumann e quello di Monsanto che si chiama Hugh Grant. Ci sono un po' di notizie che arrivano dal settore dell'auto. Innanzitutto Renault, perché riguarda ancora il tema delle emissioni inquinanti. Uno studio elaborato dal governo francese avrebbe omesso dettagli significativi su come i veicoli diesel della casa automobilistica francese possono emettere alcuni gas nocivi meno gas nocivi quando sono sottoposti ai test ufficiali sulle emissioni rispetto ai gas nocivi che emettono quando sono su strada. Lo ha scritto il Financial Times. Il documento pubblicato lo scorso mese aveva concluso che alcuni veicoli Renault emettevano ossidi di azoto, che sono dei gas che provocano malattie respiratorie, che possono provocare malattie respiratorie collegate a morti premature, da 9 a 11 volte superiori rispetto ai limiti stabiliti dall'Unione Europea. 3 dei 17 membri di questa commissione ha detto che il rapporto non includeva tutti i dettagli emersi dai test, inclusi dei problemi con il meccanismo di abbattimento del NOx. Ora, qual è il punto qua? È che il governo francese ha il 20% di Renault, e il fatto che un rapporto del governo francese ometta questi dettagli, permettete, è piuttosto significativo. Nel frattempo Volkswagen ha risolto i suoi problemi con i fornitori della Prevent, dei quali vi avevamo parlato ieri. Sono accordati per una soluzione della vertenza, un accordo di lunga prospettiva. Le forniture riprenderanno a breve. Qualcosa dall'Italia, qualche dato dall'Italia. Innanzitutto i dati sui consumi di elettricità. Nel mese di luglio 2016 la domanda di energia elettrica è stata di 29 miliardi di kilowattora, con una flessione del 9,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Su questo hanno pesato anche alcuni elementi. Ci sono stati anche un effetto di calendario e di temperatura. Rispetto a luglio 2015, che è stato uno dei mesi più caldi degli ultimi 100 anni, si è registrato un forte calo della temperatura media mensile nel luglio del 2016. Questo vuol dire che la gente ha usato meno aria condizionata, per farla molto semplice. Mentre per quanto riguarda il calendario, il mese ha contato 2 giorni lavorativi in meno. Infine, qualche dato sulle imprese. Tra aprile e giugno scorsi, sul totale delle nuove imprese iscritte negli ambiti di finanza, servizi alla persona e pubblicità, le attività ideate dagli under 35 superano il 40%, e questo è un bel segnale. Per chiudere con l'Italia, ci sono le dichiarazioni del ministro per la famiglia Enrico Costa, intervenuto a Radio 24 a Ma cos'è quest'estate, che ha parlato finalmente di un piano organico per la famiglia. Da questa parte della barricata, da chi ha come me 3 figli o più, non aspettiamo altro, ma siamo sinceramente piuttosto scettici. Sentiamolo. Nel DEF è già stato inserito, su mia richiesta, la previsione di un testo unico della famiglia. Perché? Perché nel corso degli anni ogni legge di stabilità, devo dire con buona volontà da parte del Parlamento, da parte del Governo, ha cercato di fare qualche cosa, ha cercato di individuare delle misure. Il fatto è che nel corso degli anni queste misure si sono sovrapposte, si sono tante volte anche contraddette, si sono complicate, e se oggi noi andiamo da una giovane coppia e chiediamo su che cosa puoi contare, nessuno ti sa rispondere. Perché? Perché non c'è una riconoscibilità e una strutturazione delle. Oggi noi abbiamo misure che non sono più attuali talvolta, abbiamo misure che non sono finanziate da tempo, abbiamo misure che sono finanziate ma sono, diciamo, sottofinanziate, abbiamo misure che sono finanziate ma, come si dice in gergo, non tirano, nel senso che non c'è un accesso o non c'è un interesse. Abbiamo quindi anche un disordine normativo dovuto forse anche all'eccesso di interventismo nel corso degli anni, che io penso debba essere riordinato. Ho predisposto insieme agli uffici del mio dipartimento una bozza di testo unico, una bozza di delega, perché ovviamente dovrà essere poi una delega al governo, una bozza di delega è finalizzata proprio alla ricognizione, alla razionalizzazione, al riordino. Vabbè, vabbè, era un po' in politichese, diciamolo, però l'idea è di fare un programma un po' più coordinato di interventi per la famiglia. Vedremo, staremo a vedere. Allora, il vertice di Ventotene si diceva su un punto specifico, oggi vogliamo affrontare in realtà sul lato, se vogliamo, un po' più italiano della questione. Come abbiamo già raccontato ieri e come abbiamo previsto, tante dichiarazioni di principio, due chiacchiere, tra anche più di due chiacchiere tra i tre leader, attesa per il vertice di Bratislava, tante photo opportunity, un po' di retorica, e però alla fine ci sta anche questa. E l'aspetto specifico è il tema, il mitico tema della flessibilità. Dino Pesore del Sole 24 Ore, ciao Dino, buonasera. Buonasera Simone, eccomi. Allora, non era all'ordine del giorno, però come ovviamente era prevedibile, sono arrivate le domande dei giornalisti, ha parlato Merkel, ha detto credo che il patto di stabilità abbia molte possibilità di flessibilità, noi vogliamo che Italia, Francia e Germania crescano per creare posti di lavoro e creare le condizioni per il futuro degli investimenti privati, complimenti di Merkel alle riforme di Renzi. Detto ciò, e lo ripetiamo ancora una volta, la Germania è già in una fase elettorale sostanzialmente, perché si vota nel 2017, è difficile che ci possano essere grandi concessioni. Abbiamo visto però, Dino, e lo noti in un tuo articolo oggi sul Sole 24 Ore, delle aperture che iniziano ad arrivare per quanto riguarda una flessibilità per gli investimenti nei siti culturali, no? E mi sembra che questo sia effettivamente una delle novità, uno degli aspetti, se vogliamo, anche più concreti e operativi del vertice di ieri, che come tu dici è stato un vertice di intenzioni, di manifestazione di buoni intenti, ma insomma ce ne saranno degli altri. Per quanto riguarda questa tematica degli investimenti, è molto importante che ci sia una qualche apertura, anche se, come abbiamo visto, è ancora molto timida, molto in qualche modo imbrigliata dalle scadenze elettorali, come tu ricordavi, e però tuttavia se si riuscirà ad aprire un varco già con la prossima legge di bilancio alla tematica più generale degli investimenti diretti a sostenere la crescita, e in particolare per quanto riguarda l'Italia sappiamo che per noi sarebbe molto importante che si aprisse questa finestra, se fosse possibile effettivamente scorporare dal calcolo del deficit e le spese dirette al potenziamento dei cicli culturali e in genere della cultura, e questo sarebbe un bel passo in avanti. Consideriamo che ci sono ancora molti, molti step da affrontare da qua a ottobre, però questa è la prima apertura che va registrata con favore. Eh sì, perché lo chiariamo per gli ascoltatori, appunto, parliamo di investimenti pubblici. Quando parliamo di investimenti pubblici tendiamo sempre a pensare, che ne so, all'autostrada piuttosto che a nuove ferrovie, edilizia pubblica per le famiglie in difficoltà, e però voglio dire, un investimento pubblico, anche se metti un chip, per così dire, da 1 miliardo su Pompei, 200 milioni sulla Reggia di Caserta, eccetera, eccetera, quelli sono investimenti pubblici, sono signori investimenti pubblici, perché poi sono cose che alla fine ti rendono anche. Certamente, in questo caso si potrebbe attivare la leva congiunta, e mi sembra che questa sia la strada delle sinergie tra investimenti pubblici e privati destinati alla valorizzazione dei siti culturali. Già è stata sperimentata questa strada, sappiamo che noi abbiamo moltissimi ritardi da questo punto di vista, e questo però potrebbe essere obiettivamente un volano interessante anche dal punto di vista della creazione di posti di lavoro e di spinta al PIL, perché come vediamo anche quest'anno il nostro prodotto interno lordo fatica a raggiungere almeno l'1%, sarà molto difficile che noi riusciremo a farlo. Allora il punto è: se si riuscirà per questa strada ad ottenere flessibilità europea, ovviamente è benvenuta, fermo restando che non è che con questa manovra noi risolviamo i problemi del nostro PIL, però potremmo dare una spinta obiettivamente. Il via libera alla Germania è fondamentale, anche se poi formalmente decide la Commissione europea. Quindi anche qui vedremo come andrà avanti la trattativa con Bruxelles da qui al 20 ottobre, quando il governo passerà in Parlamento la nuova manovra economica. Se si riuscirà a spuntare questo maggior deficit, sembra che ci si stia orientando verso un 2,2-2,3% rispetto all'1,8 previsto in maggio, e questo si tradurrebbe in uno 0,5 che detto in soldoni equivale a circa 9-10 miliardi. È uno spazio di manovra interessante, obiettivamente, che però bisognerà onorare con misure effettivamente destinate a sostenere la crescita, non certo a misure preelettorali che in questo senso sarebbero dannose, effettivamente di questo abbiamo bisogno. La flessibilità sul fronte degli investimenti ci serve, serve a noi, serve a tutta l'Europa, ma credo che tutta l'Europa debba provare a investire sulla cultura, perché il nostro asset è fondamentale. A qualche segnale da questo punto di vista è sembrato arrivare e speriamo che evidentemente sia confermato. Intanto ti ringrazio, grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Di questo, tra l'altro, di altri temi, insomma, più in generale della situazione europea, ha parlato il presidente francese François Hollande. L'idea di questo vertice era di dare nuovo impulso all'Europa. L'abbiamo detto molto chiaramente, io lo dico anche agli ascoltatori che continuano a scrivere, continuano a dire, qualcuno ci dice, qualcuno fa delle domande, delle osservazioni normali, altri continuano a dire siete filo governativi, non siamo filo governativi, stiamo parlando della possibilità che l'Europa e delle aperture che stanno arrivando al fatto che l'Europa riconosca una flessibilità negli investimenti nei siti culturali, che è un bene per noi vista la dimensione di siti culturali che abbiamo. Questo non vuol dire essere filo governativi, vuol dire semplicemente potremmo avere questi spazi ed è un bene per noi. È un bene per l'Italia, non è un bene per il governo. Sono due cose diverse, non capisco come si possano sovrapporre i due piani. Comunque sentiamo Hollande. E infine la terza dimensione è quella dei giovani, per i quali ciò che dobbiamo fare è rafforzare il programma Erasmus, consentire una maggiore mobilità per permettere agli europei di conoscersi meglio e anche dare un maggiore ruolo agli investimenti culturali. Questo è il motivo per cui noi vogliamo che i giovani che hanno forti aspettative nei confronti dell'Europa possano ricevere anche dopo il vertice di Bratislava. Penso alla garanzia a giovani, tutto ciò che può contribuire all'inserimento e all'occupazione. Sì, le mie scuse a Marina che ci scrive al 349-238-6666, ci siamo accorti anche noi che il collegamento con Dino Pesole non era esattamente ottimo da un punto di vista qualitativo e telefonico. La pausa, il meteo, poi ci ritroviamo e parliamo di Alcoa, dell'abbandono del sito di Porto Vesme. Focus Economia. Adesso arriveremo ad Alcoa, solo una piccola segnalazione che è questa. C'è stata una virata abbastanza netta al rialzo del petrolio negli ultimi minuti, guadagna circa l'1%. Si stanno diffondendo voci che si vada verso un congelamento della produzione da parte dei paesi OPEC e non OPEC. Vedremo come andranno le cose, perché dopo la giornata, anche quella di oggi negativa, la mattinata è negativa, poi il petrolio ha virato al rialzo. Vedremo che cosa succederà. Dunque, Alcoa. La multinazionale americana dell'alluminio, ha deciso di lasciare definitivamente lo stabilimento di Porto Vesme nel Sulcis. Il comunicato è stato firmato da Bob Beer, che è vicepresidente Transformation di Alcoa. Si dice che la società ha intenzione di avviare le attività propedeutiche alla riqualificazione del sito di Porto Vesme per lo sviluppo di nuove opportunità di business. impossibile trovare un acquirente. Abbiamo collaborato quasi 4 anni con il governo per trovare una soluzione, un acquirente idoneo, scrive Bear. L'obiettivo è proseguire con l'adempimento degli obblighi e preparare il sito per attrarre nuovi business e creare nuove opportunità di lavoro. Vi ricordavamo poco fa da cosa nasceva il tutto: una multa a 300 milioni di euro inflitta nel 2011 dalla Commissione Europea, che ha dichiarato le tariffe preferenziali riconosciute alla multinazionale sull'energia come aiuti di Stato illegittimi. Da quel momento Alcoa ha deciso di sfilarsi. Si è prospettata un'acquisizione da parte della svizzera Glencore. Qualcuno ci scrive a questo proposito dei problemi della Sardegna. Sì, e i problemi del Sulcis, dove si trova lo stabilimento. Considerate che la Sardegna ha una media di disoccupazione giovanile intorno al 50%, nel Sulcis siamo al 75%. E queste sono le misure. Paolo Bricco del Sole 24 Ore, ciao. Buonasera. Buonasera Simone, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, eccoci qua. Abbiamo anche le dichiarazioni del Ministero, che dice un annuncio inopportuno. Ci sarà un incontro a settembre. La Regione Sardegna che dice prosegue l'incontro con l'esecutivo. Abbiamo in linea tra l'altro anche Marco Bentivogli della FIM CISL. Buonasera Bentivogli, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, eccoci qua. Iniziamo da Paolo Bricco. È finita come ovviamente non si sperava che finisse, però da quel che abbiamo capito, Glencore, l'azienda svizzera che si era offerta, che sembrava si fosse offerta per l'acquisizione dello stabilimento, si è sostanzialmente tirata indietro o si sta tirando indietro. Che quadro abbiamo su questo fronte? Il quadro che abbiamo è quello di un livello di costo dell'energia insostenibile per produzioni di questo genere, perché ricordiamo che la base su cui poi vengono concesse sconti di Stato, chiamiamole così, non aiuti di Stato, è comunque una base del 30% medio maggiore. La seconda elemento è un mercato dell'alluminio che rende totalmente antieconomico produrre alluminio in una regione come quella della Sardegna. E il terzo elemento, purtroppo, che va detto con chiarezza, è che dal 2012 Alcoa aveva annunciato questa decisione e Glencore, che ha una produzione a 200-300 metri di distanza dall'attuale stabilimento di Alcoa, che fa però cose più raffinate, come dire, l'eredità buona del capitalismo di Stato siderurgico e di industria primaria del Novecento italiano, funziona quella cosa lì, è stata in questi 4 anni tirata, come dire, come si diceva una volta, per la giacchetta, più e più volte da tutti, dai sindacati, dai rappresentanti della politica locale, dai rappresentanti della politica nazionale. Glencore è stata quasi stalkizzata alla ricerca di un'interlocuzione, di qualcuno che rilevasse questo impianto. E purtroppo la verità è data da questi 4 elementi. Una situazione drammatica, complicata, che in altre parti del paese, come potrà confermare Bentivogli, che conosce bene il sistema industriale italiano, sarebbe stata assorbita senza grosse difficoltà, perché parliamo di meno di 1 migliaio di addetti fra diretti e indiretti, che però in quella parte della Sardegna, che è la parte della Sardegna che non è mai riuscita ad avere vera prosperità dall'industrializzazione spinta della seconda parte del Novecento e la rinuncia sostanziale a fare del turismo la vera fonte di ricchezza inesauribile, quella parte della Sardegna diventa un fenomeno intollerabile, cioè quelle mille famiglie che avranno sempre meno reddito e che dal 1 gennaio dell'anno prossimo vedranno anche smontarsi l'impianto pezzo alla volta, perché questo vuol dire il comunicato della multinazionale, davvero andranno in una fibrillazione totale, perché lì davvero perdere il posto di lavoro in quella parte della Sardegna vuol dire veramente rischiare di non vederlo mai più, se non con un futuro veramente da camerieri emigrati all'estero, una roba, Paolo, veramente che non avrebbero mai più voluto rivedere. Paolo, fammi riassumere, perché poi su questo tema vorrei sentire Bentivogli. Mi sembra di aver capito che quello che sostieni tu è che quel tipo di produzione che fa l'Alcoa a Portovesme, con questi costi dell'energia, in quel posto non ha senso. Non ha senso, questa cosa non aveva senso anche prima del 2012. Come dire, in qualche maniera con il sistema delle tariffazioni agevolate sulla cosiddetta interrompibilità si era riuscito ad abbassare drasticamente il valore del costo dell'energia. Il problema però è che la base su cui quei diciamo sussidi di Stato, facilitazioni di Stato, chiamiamoli come vogliamo, è per il 30% più alta e quindi diventa automaticamente una lesione della concorrenza. Il problema poi non è in questo caso prendersela più o meno con i burocrati di Bruxelles, che in qualche maniera cercano sempre di guardare con l'occhio storto gli italiani e invece con chiudere gli occhi quando i problemi sono dell'industria belga o piuttosto che francese, tedesca, perché questo accade spesso. Qua c'è proprio un problema strutturale che nasce dal fatto che dagli anni 60-70 in avanti il nostro paese ha un costo dell'energia che è per un terzo più alto della media europea. Se non ci fosse quello, il problema sarebbe radicalmente diverso per tutto il sistema produttivo. Sì, in particolare per industrie energivore come queste, evidentemente. Ecco, esattamente. Allora Paolo, fammi sentire Bentivogli che cosa ne pensa, perché ha sentito Bentivogli, la posizione di Paolo Bricco su questo è abbastanza dura, per così dire. Voi ovviamente mirate in questo momento a salvaguardare per quanto possibile il reddito di questo migliaio di famiglie. No, non solo il reddito, noi cerchiamo da tempo di salvaguardare l'occupazione. Io credo che la ricostruzione vada completata diversamente. Il problema del costo strutturale dell'energia del 30, addirittura del 40% più alto della media europea, è vero, Bricco ha totalmente ragione. Quello che però è accaduto è che in realtà da quando abbiamo iniziato questa lotta, tutti i quattro governi italiani, ricordo dal 2008, dal governo Berlusconi al governo Renzi, hanno sottoscritto con noi accordi per cui e testi di auspici per cui la produzione d'alluminio è strategica per il nostro paese. Non abbiamo detto noi, guardate, dobbiamo morire producendo alluminio, noi non vogliamo ammortizzatori sociali, vogliamo occupazione, non assistenzialismo, però anche la ricostruzione che ha fatto Bricco va completata secondo me diversamente, nel senso che l'ultimo schema di offerta dell'energia proposta a Glencore, e cioè si arriva a 25,7 euro megawatt ora, è il prezzo più basso che c'è in Europa. Mi si dirà, ma questo si fa con gli aiuti di Stato? No, si fa con gli strumenti utilizzati da tutti i paesi europei. Chi mi conosce sa bene che sono uno dei rari sindacalisti contro gli aiuti di Stato e le nazionalizzazioni, sono stato l'unico a schierarsi contro la nazionalizzazione dell'Ilva. Dico però che le strumentazioni per arrivare a 25 euro megawatt ora sono identiche a quelle utilizzate da Germania, Spagna e Francia e tra l'altro sono state vistate e per cui asseverate dalla Commissione europea, per cui siamo su uno schema ulteriore diverso rispetto a quello che poco fa veniva spiegato. Quello che è vero è che in realtà, mi dispiace questa ricostruzione, Glencore è stata tutt'altro che stalkerizzata, come è stato detto. Glencore in questa fase ha fatto, io sono molto spietato su questo, una finta trattativa, perché dal 2008 tutto ciò che siamo riusciti a ottenere per far rimanere la produzione di alluminio, in realtà Alcoa non lo ha utilizzato e l'ha utilizzato lo stabilimento di Glencore che si chiama Portovesme SRL. E quindi lei dice, la sua tesi è questa: Glencore ha fatto finta di trattare perché voleva mantenere i benefici per il suo stabilimento. Questo è quello che sostiene lei. In realtà, un'azienda che non risponde. Noi abbiamo detto a Glencore di se sì o se no. Il problema è che secondo me non arriverà mai la risposta di Glencore e questo la dice lunga rispetto a questo schema di trattativa. Tanto è vero che anche il comunicato che veniva raccontato di Rob Beer, il Vice President di Transformation di Alcoa, dice una cosa non vera, è che loro hanno collaborato per 4 anni. È vero, non c'è stata la corsa perché questa è una vendita a prezzo negativo a comprare, sì. Però i pochi investitori che si sono presentati, Alcoa ha impedito la visita dello stabilimento e qualsiasi accesso alle data room per la due diligence. Significa che, ed in queste ore noi lo abbiamo chiesto al ministro Calenda e a Renzi, bisogna fare in modo che Alcoa collabori veramente. Poi Bricco può avere anche ragione, io ho incontrato tanti, non Bricco no di certo che è persona seria e preparata, ma in Sardegna purtroppo bisogna sapere che non c'è una vertenza industriale chiusa positivamente, per cui qui vengono in mente che probabilmente ci sono problemi strutturali. C'è una classe politica molto benaltrista, troppo spesso in Sardegna, che fa gara a fare i salvatori della patria, e in realtà lì appunto abbiamo i ragazzi che attorno ad Alcoa nel sul ci stanno partendo con le valigie in mano di nuovo verso altri paesi. Voglio ricordare una sola cosa. Durante una fase drammatica della vertenza, nel piano Sulcis furono stanziati 400 milioni di euro. Io penso in nessuna area del paese c'è stato uno stanziamento così grosso. Sapete quanti soldi sono stati spesi di quel piano Sulcis? Zero. Allora io credo che la prima cosa da fare, anche a chi dice l'industria pesante è finita, bisogna fare altro. Ecco, quest'altro però, se vogliamo far vivere di lavoro e non di assistenza, se c'è una cosa bella dei ragazzi del Sulcis è che da sempre hanno detto: noi vogliamo un lavoro, non vogliamo né cassa integrazione né assistenzialismo di qualche tipo. Allora Bentivogli, io la ringrazio, faccio rispondere Paolo Bricco e lo faccio chiudere, e poi andiamo in viabilità, e ci sono i mercati anche, Milano ha chiuso molto bene, più 2,5%. Paolo. Ringrazio Bentivogli per le osservazioni e anche critiche, è sempre interessante poter interloquire con un sindacalista non ideologico. In questo caso però vorrei ricordare al segretario che nello specifico la differenza è che la Glencore nel suo stabilimento ha una specializzazione produttiva alta rispetto all'Alcoa, che ha una produzione di alluminio basic. Quindi torniamo a bomba, il problema è che lì quella cosa lì non si può fare. Non a caso poi, quando si è creato appunto un piano, come dire, territoriale, industriale, collettivo, quello famoso da 500 milioni di euro, alla fine si è rappattumato, si è fatto la collazione di tutta una serie di denari già precedentemente definiti e stabiliti per le cose più diverse, e in quel caso, se non erro, cito memoria, il governo del professor Monti non riuscì però a trovare una vera definizione di nuovo core business, che può essere benissimo il dire mettiamo tutti i soldi per riuscire a fare l'alluminio di ultima generazione, ma non fu così. Quindi ancora una volta, secondo me, dal punto di vista dell'osservazione, quella crisi industriale è una crisi industriale per eccesso di arcaicità della produzione, e questa cosa noi non possiamo dimenticarla. Allora, io ringrazio, avete sentito anche due tesi diverse su questa vicenda, che immagino proseguirà e ce la tireremo avanti ovviamente quantomeno fino a settembre. Vedremo che cosa succederà, se ci sarà una risposta di Glencore finale, che cosa farà Alcoa, ci sarà la riconvocazione di un tavolo di trattative, magari torneremo anche a parlare nei prossimi giorni. Intanto grazie a Paolo Bricco, a Marco Bentivogli, il traffico e poi la borsa. Focus Economia. Ed eccoci dunque con i mercati che chiudono bene, più 2,23% il FTSE, più 2,5% il FTSE MIB, più 2,23% invece il FTSE All Share. Parigi più 0,72%, Francoforte più 0,94%, Londra più 0,66%, l'America più 0,36% sullo Standard & Poor's, Dow Jones più 0,23%, Nasdaq che ritocca i massimi. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa è successo? Ma diciamo che in Europa, da una parte sul fronte macroeconomico sono arrivati segnali positivi o comunque incoraggianti dall'indice dei responsabili degli acquisti, sia del settore manifatturiero che di quello dei servizi, in particolare quello dei servizi ad agosto è migliorato e nonostante un calo della manifattura l'indice generale è comunque migliorato, quindi nonostante i timori su un possibile effetto Brexit, infatti gli analisti si aspettavano dati in calo, gli indici sono invece risultati in rialzo e questo ha, come dire, alimentato l'ottimismo degli investitori. Su questo ha colpito in positivo soprattutto il settore banche. Oggi c'è stato un vero e proprio rally dei titoli bancari a livello europeo, il sottoindice del compound è salito del 2,45%, a Piazza Affari addirittura del 5%, e questo ovviamente ha trainato tutti i listini, a partire da Milano, che è stato il migliore d'Europa, con un rialzo appunto del 2,5%, come ricordavi tu. Sì, questo appunto il quadro generale, per darvi un'idea a livello europeo è Deutsche Bank il titolo migliore a Francoforte con un guadagno del 3,5%, Société Générale a Parigi guadagna il 3,08%, BNP Paribas il 2,34%, a Milano abbiamo UbiBanca che guadagna il 7,03%, Popolare Emilia Romagna il 5,7%, Mediobanca il 5,2%, Intesa San Paolo il 4,9%, Banco Popolare il 4,5%. Ma i riflettori, Paolo, mi sembrano puntati su Unicredit più 6,6 e Fineco più 7,9. Sì, qui si tratta di indiscrezioni rimbalzate dalla Polonia fin dall'apertura dei mercati sulla possibilità che Unicredit venda la propria controllata polacca Bank Pekao per ovviamente rafforzare il patrimonio e quindi ridurre l'eventuale necessità di aumento di capitale, almeno ridurne l'ammontare. Unicredit quindi è salita del 6,63% ed è salita, come dicevi tu, soprattutto anche Fineco Bank più 7,90%, infatti se davvero Unicredit venderà Bank Pekao, questo rende meno probabile che l'istituto venda anche ulteriori quote di Fineco, come già fatto in passato con un pacchetto del 10% per rafforzare appunto il patrimonio. Né Unicredit né Bank Pekao né l'assicurazione polacca PZU, che sarebbe l'acquirente di Pekao, hanno commentato queste indiscrezioni e vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità concrete su questo fronte. A proposito dei bancari, bene anche Monte dei Paschi più 3,6, Popolare Milano più 3,6, Mediolanum più 3,7%, bene anche tra gli assicurativi Unipol più 3,7, Generali più 4,47%, beh, e poi c'è questa Mediaset che fa un più 4,35% e di pochi istanti fa tra l'altro la notizia che Fininvest ha chiesto 570 milioni di danni a Vivendi per il caso della mancata acquisizione di Mediaset Premium. Paolo? Sì, esattamente, ma nonostante appunto queste mosse sul piano, sul fronte giuridico, gli analisti e il mercato continuano a ritenere probabile un accordo alla fine tra Mediaset e Vivendi sul caso Premium. Secondo gli osservatori, infatti, sono tutte diciamo azioni dovute e finalizzate soprattutto a mettere pressione a Vivendi con l'obiettivo di raggiungere un accordo. Ricordiamo che appunto Vivendi aveva firmato un contratto per acquistare Premium e poi si è tirata indietro non ritenendo credibili i target del piano industriale di Premium. Ora le parti dovranno appunto cercare una soluzione. Secondo le indiscrezioni potrebbero arrivare a un accordo che permetta, che eviti a entrambe di consolidare Premium, che ricordiamo è in perdita e quindi entrambe non vogliono consolidarla per non avere l'impatto sui loro bilanci, ma che comunque porti appunto a una soluzione condivisa da entrambe le parti. Allora, per quanto riguarda il resto del listino, negativa è solo Campari, meno 0,15%, Talcementi, meno 0,09%, tutti gli altri titoli sul listino principale sono positivi. Tra gli altri titoli, Poligrafici, più 10,7%, Molmed, bene ancora oggi, più 8,35%, dopo il via libera ad un farmaco da parte delle autorità europee, arrivato ieri, bene la Roma Calcio, più 8,3%, Fineco, vabbè, lo abbiamo detto, gli altri sono bancari, in fondo al listino Alerio, più 2,5%, IVS Group più meno 2,3%, Cerved meno 2,31%, Bio-On meno 2,3%, Agronomia meno 2,27%. Tra i titoli minori, e chiudiamo qua, Paolo, Diasorin più 2,6%. Sì, Zessori, che è un altro titolo farmaceutico positivo, che ha guadagnato terreno, ha ricevuto dalle autorità americane l'incarico di mettere a punto dei test sul virus Zika, e naturalmente questa notizia, che di fatto si tratta di un nuovo contratto importante in ingresso, ha sostenuto le quotazioni del titolo. E anche di industrie farmaceutiche parleremo tra un attimo. Grazie intanto a Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, e buonasera. Allora, perché parliamo di industrie farmaceutiche? Perché si potrebbe concludere a breve, potrebbe essere questione di pochi giorni, l'acquisizione di Monsanto da parte del colosso Bayer, dopo che ieri Pfizer, altra azienda farmaceutica, ha annunciato l'acquisto per 14 miliardi di dollari del gruppo californiano delle biotecnologie Medivation. E fuor dalla farmaceutica stretta, ma nella chimica, le fusioni nei mesi scorsi sono state tra Dow Chemical e DuPont, e ChemChina con la svizzera Syngenta. Marco Valsania del Sole 24 Ore da New York. Marco, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora, cosa dobbiamo questo andamento, questa, vogliamo chiamarla esplosione o comunque rinnovato giro di merger and acquisitions? Ma sicuramente questi due settori che hai citato tu, cioè il farmaceutico e i settori così dell'agrobusiness, delle sementi e dei pesticidi in particolare, sono due settori che sono stati al centro di grandi movimenti, di grandi spinte al consolidamento, legati alla necessità di competere sempre più su scala globale, alla necessità di contenere i costi e di mettere assieme le risorse e avvantaggiarsi in questo modo di economie di scala. La farmaceutica, appunto, abbiamo visto operazioni in crescendo nell'ultima fase. Ricordavi solo ieri, diciamo, la Pfizer che si è ha conquistato la Medivation, che è una società di biotecnologia specializzata in un farmaco per il trattamento dei tumori alla prostata. E di oggi è la notizia che Bayer e Monsanto, una telenovela che si trascina ormai da mesi, potrebbero essere vicine a loro volta a una fusione da oltre 50 o 60 miliardi di dollari. L'obiettivo chiaramente è quello di mettere assieme attività complementari, di puntare su segmenti a crescita, a forte crescita, e in qualche modo contenere il peso della costosa ricerca, sì, diciamo, nuovi farmaci come anche di nuove evidentemente aziende che comunque hanno vissuto questa fase di crisi non in maniera dura come l'hanno vissuto altri settori industriali, se hanno questa disponibilità economica, no? Certo, sono comunque aziende di grandissime dimensioni che, diciamo, cercano in questo momento di fare scommesse strategiche, cioè per cercare di identificare quelli che sono i segmenti futuri a maggior crescita. Nel farmaceutico, in particolare, anche perché una serie di operazioni di più corto respiro, di fusioni, diciamo, di più corto respiro, cioè le famose inversioni fiscali, cioè quelle motivate dal semplice tentativo di abbassare il carico fiscale trasferendo la sede centrale in paesi con una più bassa aliquota, tipo l'Irlanda, ecco, questo tipo di merger oggi si scontrano con resistenze politiche polemiche a livello di mercato. Ecco, quindi, diciamo, la spinta invece a cercare anche nel settore farmaceutico delle fusioni con obiettivi più strategici di crescita futura è aumentata e accelerata. Sì. Allora, io ti ringrazio, grazie a Marco Valsania del Sole 24 Ore da New York. Abbiamo aperto col collegamento di Dino Pesole, che non era un granché telefonicamente, abbiamo chiuso con un collegamento che altrettanto non era un granché telefonicamente, ce ne scusiamo con gli ascoltatori, a volte le giornate vanno così. Grazie anche a Mauro Del Corno in redazione, a Roberta Frizzani in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.